been waiting for a guy to come and take me by the hand. These sensations bear the end, so leave them for another day. E sono le ore 21:30 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Anche per oggi 11 ottobre sciopero generale. Anche per questa sera dunque c'è Disorder. Spazio che andrà avanti fino alle 23 circa. Spazio musicale dedito al gothic, al neofolk e naturalmente molta elettronica. Vado a salutare una serie di personaggi che ormai sono gli affezionati di Disorder, di prove tecniche di trasmissione. E dunque, tabula rasa, Maia dalla Sardegna, Marco qui a Roma, Roberto Faloci di Phantom Ship. E poi il buon Karl Marz, con la Z e non con la X. Francesco Cornello in quel di Bergamo, Alberto Clipper di MDMA, Enrico Ponzone di Sokushibutsu Project, Dez De Carlo from Boston, Dadi Persegona di Os. Francesco Cornello da Bergamo, una new entry, Mickey. E noi si va ad iniziare andando a riprendere l'ultima fatica della nostra carissima Lisa Gerard, naturalmente di Deccan Dance. Artista che per quanto riguarda la sua carriera solista si è avvalsa di numerosissime collaborazioni con musicisti più o meno famosi, su tutti comunque Klaus Schulz, un nome che non ha bisogno di presentazioni. In questa circostanza invece si è avvalsa dell'arte di Jules Maxwell. L'album in questione si chiama Barn e naturalmente va ad unire delle classiche atmosfere etniche di world music della stessa Lisa Gerard con influenze più prettamente dark wave. Ne è venuto fuori appunto un album breve ma abbastanza intenso, dal quale ci andiamo ad ascoltare gli ultimi due episodi, Che Son e Du Yusul. Du Su Yul, anzi Du Su Yul. Che son de mi non è I fall. ci ha colto un po' di sorpresa, ma tant'è. Finiva così dunque questo barn, questa collaborazione tra Lisa Gerrard e Jules Maxwell, e finiva direi alla grande con Quezon d'Ozuyul, ha colpito ancora una volta nel segno, ritengo, la nostra Lisa Gerrard, con gli elementi che ben conosciamo, che anche questa volta sono assemblati con abilità e classe. Saluto Valerio Michetti e Alessandra Trinity Bersani della Grazia Obliqua, enorme realtà tra Dark Wave ed elettronica qui proprio a Roma, Jean-Claude Berthaud a Val d'Aosta e Sasha Rovelli di Luce Sia, anche questa una enorme realtà per quanto riguarda le etichette in quel di Bellinzona in Svizzera. Allora, arriviamo qui in Italia, lo facciamo con i nostri Killian Camera, anche loro hanno un posto nel nostro cuore e quindi noi seguiamo in maniera costante le evoluzioni della loro carriera. Ed è uscito da un po' un monumentale triplo CD dal nome Cold Pills. Cold Pills, tra parentesi Scarlet Gate o Toxic Daybreak, un triplo CD molto vario con i classici passaggi di Dark Wave, Synthwave, EBM, ma anche delle pagine diciamo sperimentali di musica concreta e di modern classical, come si suol dire, presenti soprattutto sul terzo CD che andiamo proprio ad analizzare questa sera. E lo facciamo dunque con questi due brani, Concrete Illusion e Grey Drug. The Pills, che segna il ritorno in quota per quanto riguarda i Killian Camera, e molti di noi, me compreso, magari sono rimasti spiazzati e probabilmente piacevolmente sorpresi, soprattutto da questo terzo CD che riprende e forse migliora anche i rigori iniziali della loro carriera. Mai forse si sono spinti così là, soprattutto nel un brano che andremo ad ascoltare prossimamente in prove tecniche di trasmissione, a testimonianza della strada, diciamo, avanguardistica che è stata presa in alcuni frangenti dai Killian Camera. Fatto sta che Concrete Illusions e Grey Drug hanno dato una ampia testimonianza della versione, della visione artistica parziale di questo album. Un buon ritorno dunque per Killian Camera, molto vasto. Naturalmente ci sono anche le pagine più riconducibili in maniera classica ai Killian Camera. Saluto Riccardo Bianchi di Derma, una nuova realtà che ci andremo ad ascoltare tra qualche minuto qui a Disorder. Confermo a Sasha Rovelli, mi sento di consigliargli effettivamente di reperirsi questo Cold Pills, non rimarrà deluso. Come non siamo rimasti delusi dall'esordio invece di questo progetto che nasce dalle parti qui di Roma, Palestrina esattamente, che si chiama Blocco 24, una efficacissima unione, fusione di Dark Wave, IBM e Synth Pop. Apprezzati già la scorsa settimana, ci andremo ad ascoltare due episodi molto intensi dal nome Lenti e Confusi e Barriere. La bellezza è solo uno strumento effimero. Svanisce col tempo e non resta niente, solo ricordo di vanità. E non riesci ad arrenderti. Il corpo non risponde come vorresti, ma ti ostini a ripetere i gesti. Come a vent'anni, la pelle che cambia. certe che non è poi così diverso, ma è falso. È inutile fuggire, sei vecchio, sei stanco.